already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Social Security is a joke. I like to, you know, I have parents. I don't need another set of parents called the government. Joe the plumber's at it, and he's gonna cover the war objectively for us. Insomma, avete capito, c'è la guerra, il mondo trema, l'insicurezza regna suprema, ma poi ecco che arrivano notizie come queste e tutti noi ci sentiamo, non dico un po' più buoni, ci sentiamo un po' meglio in fondo, perché alla fine, come diceva quello, una grande risata, c'è sempre il rischio che ci seppellirà tutti, quando per esempio si viene a conoscenza da autorevolissimi siti americani che è tornato Joe the Plumber. Dai, ricordate, fine 2008, tanto tempo fa, quando c'erano le elezioni americane e un giorno Barack Obama ebbe la brutta, sfortunata idea di fermarsi per le strade di Toledo, Ohio, mentre faceva campagna elettorale porta a porta, a sentire cosa aveva da dirgli quel signore molto muscoloso, no? Un po' un mastro lindo che gli andò incontro, gli fece delle domande e da lì, insomma, uscì fuori che Obama era un pericoloso socialista, ma questo però è parte del dibattito politico, è parte della storia di una elezione. Poi da tutto ciò si diparte invece un filone narrativo diverso, separato, che è quello che riguarda per l'appunto Joe the Plumber. Joe l'idraulico, che presto venimmo a sapere chiamarsi Wurzelbacher di cognome e di avere tutto sommato inizialmente una certa ritrosia a diventare il personaggio mediatico che i grandi protagonisti della corsa elettorale, naturalmente John McCain e Sarah Palin in testa, desideravano egli diventasse. Poi alla fine ha detto ma che in effetti i suoi affari di idraulico non andavano troppo bene, non aveva neanche la licenza perfettamente in ordine e cominciò a fare le sue brave comparsate, cominciò a fare un pezzo di campagna elettorale, gli proposero un programma televisivo, di fatto funzionava per quei misteri, no? Quei segreti imperscrutabili, insondabili, che governano lo show business a qualsiasi livello. Joe l'idraulico funzionava, questo nome era una etichetta straordinaria, il personaggio c'era, la semplicità disarmante delle sue affermazioni faceva centro e divenne un eroe nazionale. Passate le elezioni, no? Passata la festa, insomma, sembrava che di Joe the Plumber si dovessero perdere le tracce e invece ieri, proprio nel pieno, insomma, di questa ridda di notizie sempre inquietanti, sempre tristi, sempre preoccupanti che arrivano da Gaza e dal confine con Israele, è arrivata la notizia di Joe the Plumber. E questa è una notizia francamente allegra, interessante, divertente, perché in sostanza Joe the Plumber ha trovato nuovamente lavoro, niente più tubi e chiavi del 9, ma invece un lavoro da corrispondente di guerra. Voi direte che c'entra Joe the Plumber col corrispondente di guerra? Niente, però è la trovata così promozionale di una televisione locale che dello stato dell'Ohio, dove Joe continua a vivere, e per 10 giorni spedisce Joe the Plumber in missione sugli scenari di guerra, e Joe the Plumber racconterà la sua guerra, la guerra di Gaza vista dai suoi occhi, e ieri ha fatto una piccola presentazione e ha detto che secondo lui la guerra è tragica. E anche questo è un dato di fatto, difficile non essere d'accordo con lui. Gli hanno chiesto: ma non hai paura, insomma, tu fai l'idraulico, come pensi di comportarti lì in prima linea? E lui ha detto che tutto sommato lui fa sì l'idraulico, ma è soprattutto un buon cristiano, quindi ci sarà Dio a tenergli la mano sulla testa, speriamo non abbia altro da fare, quindi si sente tranquillo. Dice: certo, c'è sempre la possibilità, a un certo punto ha detto, che un colpo di mortaio si interessi di me, ma questa è una scommessa che voglio fare. E a quel punto, a tagliar corto, è intervenuto Thomas Tabak, che è il suo ufficio stampa, perché adesso Giolo Idraulico c'ha anche l'ufficio stampa, e ha fatto sapere al mondo che le autorità israeliane si sono dichiarate molto eccitate dall'arrivo di Giolo Idraulico. E questo io, proprio che ci credo. Così, diciamo. Comunque, noi poi di eroi comunque ne abbiamo molti altri, perché in questo momento siamo un po' laconici, no? Facciamo un po' gli scettici blu. In fondo mancano ancora una dozzina di giorni all'inaugurazione, siamo un po' in quelle acque di mezzo, no? Cerchiamo di vedere un lato e l'altro della costa e ci scegliamo degli eroi particolari, quindi il ritorno di Joe De Plumber, ma soprattutto un nome che per noi è già una leggenda, Roland Barris. The only thing I regret is not being able to walk on that floor with my colleagues and be sworn in, and that I look forward to in the very near future, but quest'uomo è l'innocenza fatta politica. Ora voi direte: l'innocenza fatta politica, caro Stefano, non esiste, non ce n'è traccia. E invece, secondo me, lui è l'innocenza fatta politica. Roland Barris è questo anziano politico dello stato dell'Illinois che il perfido Blagojevich, il governatore peraltro tuttora in carica dello stato, ha spedito alla fine al posto di Barack Obama per tagliare la testa alla questione della sua sostituzione. Come sapete, ieri l'hanno aspettato sulla porta, gli hanno dato praticamente un calcio nel sedere, poco meno, poco più che figurato, insomma, l'hanno rimandato indietro sempre sotto la pioggia, e lui se n'è tornato a casa perché, come ha detto in conferenza stampa, non avevo le credenziali apposta. Adesso però le cose stanno cambiando ancora, perché Blagojevich, nonostante tutto, è ancora governatore dell'Illinois, anche se ha cercato incontrovertibilmente di venderselo quel seggio senatoriale di Obama, e Barris, da lui nominato, perché il governatore ha diritto di nominare il senatore in caso di abbandono da parte di un altro senatore, e Barris sta per tornare un'altra volta a Washington, e pare proprio che questa volta lo faranno entrare. Non solo lo faranno entrare, ma ieri è arrivata anche la benedizione di Barack Obama, che ha detto, due punti: è un buon servitore della cosa pubblica e se siederà in Senato lavorerò con lui come con un qualunque altro senatore. La questione spetta al Senato, ma conosco Barris e so che è un buon funzionario pubblico. Avete visto quante sono le strade che portano in paradiso e come talvolta sono tortuosette, no? Anziché no. Di fatto i democratici si erano opposti all'ingresso nel gruppo parlamentare di una persona scelta da Blagojevich, ma la legge a questo punto è dalla parte di Barris. Il veto deve cadere e alla fine la volontà di Blagojevich è destinata a essere rispettata, e l'anziano Roland Barris, ex procuratore generale dello Stato dell'Illinois, siederà al Senato. Poi, sempre in questa terra di mezzo, altro cambio di scenario. Vi abbiamo raccontato la storia di Leon Panetta e della, non dico ostilità, ma perplessità che ha circondato l'annuncio della sua nomina a capo della CIA. Lui, veterano della Casa Bianca, veterano clintoniano di ferro, ripescato da Barack Obama sull'idea della intelligenza, no? Sull'idea del personaggio che sa come si fa, sa come si dirige, un grande manager, uno con la visione, uno anche con la capacità di navigazione nei corridoi, magari uno con nessuna competenza in campo di intelligence. C'è stata molta maretta l'indomani della sua nomina, ma adesso anche qui la maretta sta rientrando. Infatti ci sono stati un paio di giorni di intensa attività diplomatica all'interno del partito. Lui ha fatto un po' il vago, ha detto che certo era preoccupato da questi segnali di incertezza che lo circondavano. Obama e Joe Biden hanno lavorato di lobby, soprattutto Joe Biden, che secondo me lo si critica un po' troppo perché non lo si vede, ma sotto sotto il suo lavoro da vecchio frequentatore del Congresso lo fa, e come. Non a caso la mini rivolta è rientrata e Leon Panetta diventerà regolarmente direttore della CIA. Addirittura la senatrice Dianne Feinstein, che sta per assumere la guida della Commissione Intelligence del Senato, ha detto adesso di essere pronta ad appoggiare la scelta dell'ex capo dello staff di Clinton alla guida della CIA, la stessa Feinstein che solo due giorni fa aveva reagito duramente dicendo ma qui ci vuole competenza, non ci vogliono persone simpatiche, e invece adesso anche lei è dalla parte di Panetta. Biden ha detto che è stato un errore da parte sua e di Obama non sondare il terreno prima, insomma, a Washington. Va bene che arriva l'uomo dei cambiamenti e dei miracoli, ma vogliono contare, no? Vogliono essere presi in considerazione con i loro pareri. Pareri espressi ad esempio da uno che conta come Paul Krugman, che è uno che vince premi Nobel e scrive sul New York Times, e quindi quando dice le cose l'America, almeno una certa America, lo sta a sentire, e anche lui si è pronunciato, anche questa è Maretta sull'amministrazione Obama, si è pronunciato a riguardo di Sanjay Gupta, no? Ieri vi abbiamo raccontato dell'imminente insediamento di Sanjay Gupta nel ruolo di Surgeon General, ovvero di chirurgo generale, insomma di medico della salute, di medico sociale dell'amministrazione Clinton, quello che dice agli americani come si devono comportare e quali regole devono seguire, e alle aziende, alle industrie, al settore dell'educazione e quant'altro. Insomma, Krugman ci è andato giù pesantissimo su Gupta dicendo chi? Gupta chi? Quello lì di CNN. Ma che siete matti? Vi ricordate della litigata che ha fatto con niente meno che Michael Moore, no? Il regista di Sico, in cui una litigata in cui Gupta è uscito assai abbozzato, insomma, perché ha dato del bugiardo a Michael Moore per alcune delle verità presentate da Michael Moore nel suo documentario contro lo stato della sanità in America, e ha sbagliato a più riprese e si è scusato in modo assai parziale, e per questo Krugman lo etichetta così un po' di superbia e un po' di eccesso, no, di spirito mediatico. Forse, sostiene Krugman, ci vorrebbe in quella posizione una figura più saggia. E poi tante altre sarebbero le notizie, ma tagliamo corto sui fatti dell'amministrazione entrante. Vi diciamo che alle ore 17 italiane, alle 11 ora di Washington, è attesa una importante comunicazione di Obama sullo stato dell'economia. Obama, per carità, aspetta il 20 a governare, ma avvisa che dal 20 in poi gradirebbe non avere troppe opposizioni, soprattutto per quello che riguarda il piano, il PAC, no, il pacchetto di intervento in favore a sostegno dell'economia americana. Ad esempio dice: se non agiamo subito, anzi dirà, queste sono anticipazioni, se non agiamo subito la recessione durerà per anni. In sostanza chiede al Congresso di lasciar passare le sue proposte, di cui già oggi si saprà qualcosa di più. Ha parlato anche George W. Bush, ha parlato proprio su Obama, così gli ha fatto gli ha dato un benvenuto di quelli che, se fosse un oroscopo, uno lo straccerebbe e lo nasconderebbe in fondo a un armadio, perché gli ha detto: la nostra patria è minacciata, il nemico vuole colpirci, dobbiamo chiederci come lo farà, inevitabilmente nasceranno crisi, chissà dove, coinvolgeranno l'America, ci saranno disastri naturali, uragano, tornado e incendi, perciò benvenuto Barack. Tengo tanto che decirte, pero cómo empezar. Yo de veras sí te quise, pero ya no puedo más. Y ya no puedo más. Ya y no puedo más. Y ya no puedo más. Yes, I'm. Pick up the line. And how a man's supposed to get along when his better half won't come back home? My love for you will never go away. That's why I need you here today. I keep trying to call, but you won't answer the phone. You don't want me no more. Oh, yes. Oh. But if it's tried, oh, how hard could it be when there's still love for you and love for me? See, my love for you will never go away. That's why I need you here today. I keep trying to call, but you don't answer the phone, 'cause you don't want me no more. Oh. Questo si chiama Rafael Sadiq. Io ve lo consiglio se vi piace come ci piace la soul music. È un nome nuovo, anche se poi non nuovissimo, nel giro delle grandi produzioni che sentite spesso e volentieri a Jefferson Mingro. Sentirete ancora in questi giorni. Tra l'altro è appena uscita una agenzia che parla appunto di Washington, di 20 gennaio, di inaugurazione e di inquietudine, se è vero che l'intelligence americana fa circolare tra gli addetti alla sicurezza americana avvertimenti sul rischio che le celebrazioni dell'inaugurazione della presidenza Obama saranno un possibile obiettivo di attacchi terroristici. Si dice che è un'iniziativa di routine, che non ci sarebbero informazioni credibili, ma che comunque i livelli di allarme sono altissimi. Il centro della capitale verrà chiuso praticamente già 24-36 ore prima, un'area blindata di 9 km quadrati, ma di questo poi ci occuperemo ampiamente la settimana prossima. Adesso invece andiamo alle notizie del momento. Prima pagina. Beh, intanto tocchiamo ferro su queste notizie poco incoraggianti. Beh, insomma, sono poco incoraggianti, però sono anche di routine, come dire, lì arrivano 3 milioni di persone. C'è sempre un rischio attentati. Che ci sia qualche malintenzionato è possibile. Allora, veniamo alla Cina. Tu Stefano ti ricorderai benissimo, ma sicuramente anche i nostri appassionati di calcio, soprattutto da altri tempi, una volta si diceva clamoroso al Cibali. Clamoroso al Cibali. E possiamo dire però clamoroso in Cina, perché nonostante le Olimpiadi, il 2008 è stato il primo anno da 5 anni a questa parte in cui il turismo in Cina è calato. A sorpresa, le Olimpiadi devono essere il traino per portare più turisti stranieri in Cina, invece c'è stato un piccolo flop, piccolo grande, poi su questo si può discutere, perché la BBC, che cita dati rigorosamente forniti dall'Ufficio Nazionale Cinese del Turismo, parla di 130 milioni di turisti stranieri che sono arrivati in Cina nell'anno solare 2008, con un 2% in meno, equivalenti più o meno a 2 milioni in meno rispetto al 2007. Ma perché tutto questo? Secondo la BBC, molti sono stati scoraggiati dalle imponenti, forse eccessive, misure di sicurezza messe in piedi proprio per le Olimpiadi, mentre il responsabile del turismo cinese dice altro, parla di insomma, effetti collaterali della crisi economica e quindi blocca anche i viaggi verso la Cina, e poi dice testualmente una serie di seri disastri naturali, tra i quali mette naturalmente il terribile terremoto del Sichuan, le bufere di neve di inizio 2008 che bloccarono molte persone e fecero anche delle vittime nelle stazioni di mezza Cina, e poi tra i disastri naturali mette anche i disordini in Tibet, e qui sospendiamo il giudizio. Oh, invece, sempre nella nostra, così, nell'empireo del, un po' ironico, mi raccomando, dei nostri nuovi eroi, inizio 2009 per Jefferson Ming, lì dove ci sono Joe De Plumber, corrispondente di guerra, e Roland Barris, il politico innocente, ci vorrei mettere anche Larry Flint, il re del porno, personaggio mitico, anche un po' sdato, no, se vogliamo, delle cronache americane. Ricordate, c'è anche un film di Oliver Stone, se non sbaglio, no? Guerra Milos Forma, non mi ricordo. Forma, forse con Woody Harrelson. Sì, molto, molto bello. Tanto. Comunque, insomma, uno che si è inventato buona parte della stampa e poi anche del mercato video legato al porno americano, che si è rivolto all'entrante amministrazione perché dice che anche il porno vuole il suo bailout. Il suo bailout. Lui si limita a chiedere 5 miliardi di dollari, perché è sempre stato un ragazzo, insomma, così dei mercati marginali, mica del mainstream, e dichiara, dice: Ma insomma, ma perché tutti noi, le nostre mamme, dobbiamo solo dare soldi alle big three, no? A Chrysler, Ford e compagnia? Dice, anche l'industria del porno sta subendo così gli effetti della recessione, ma noi ci accontentiamo di 5 miliardi di dollari, ed è una cosa seria, perché dice, noi siamo quelli che rendono la vita degli americani migliore. Se gli americani possono fare a meno delle automobili, ma sicuramente non fa bene, is unhealthy, non fa bene alla loro salute come nazione fare a meno del sesso, e secondo lui in questo momento la gente in America è sessualmente un po' depressa, e quindi non può vedersi i film perché sì, insomma, costano troppo. Poi dice che i DVD vendono meno, ma sul web sta andando molto bene comunque. Beh, a suo tempo il porno favorì l'imposizione del VHS sul Betamax, che era più, insomma, di miglior qualità negli anni 70. Com'è che sai queste cose? No, perché ho letto recentemente degli articoli su questo, perché siccome costava meno riprodurre su VHS i film porno, l'industria del porno scelse il VHS, sapevo, alla fine il VHS venne competenza, imposto eh? A furor di popolo rispetto al Betamax, molto più evoluto, più, insomma, più interessante rispetto al VHS. Mi fermo qui avanti, non ho altre competenze. Ti seguiamo con interesse. Perlomeno sul Betamax. Allora, a volte ritornano e ritorniamo a parlare, ma lo facciamo spesso qui a Jefferson Ming, della melamina, che è stato un po' un piccolo grande tormentone degli ultimi mesi, soprattutto del 2008, perché a novembre venne sequestrato un carico di 40 tonnellate di farina di riso proteica destinata agli animali, quindi ad arricchire i mangimi, nel porto di Ravenna. Sono uscite finalmente le analisi seguenti a questo sequestro, e si è scoperto che c'era la melamina dentro al 2,1%, quindi una percentuale molto alta rispetto ai limiti consentiti, e quindi insomma la melamina era arrivata anche da noi, ma la Guardia di Finanza era stata brava a fermare questo carico sospetto. Oh, cari amici tecno fissati, insomma, che vi piacciono le novità dei computer, oggi vi avviso che fra una ventina di minuti scarse si parla di Mac, si parla di Apple, si parla di Steve Jobs, ma per essere equanimi, insomma, giusti, diamo anche l'annuncio che anche dall'altra parte non c'era il capo ufficio. Bill Gates non è andato a Las Vegas al Consumer Electronics Show, dove si è svolta la grande presentazione, ma per lui l'ha fatto il fido amministratore delegato Steve Ballmer, e la Microsoft ha presentato Windows 7, il nuovo sistema operativo, che ha uno slogan assai particolare, I'm a PC, no? Per rispondere un po' a quello Mac, ma di tutto questo ci occupiamo tra un pochino. Repubblica. Il passaggio di consegne. I'm doing everything that we have to do to make sure that the day that I take office, we are prepared to engage immediately in trying to deal with the situation there. E questo è Barack Obama che ieri al termine della presentazione di nuovi membri dello staff entrante, la sua amministrazione che entra in carica, diventa effettiva dal 20 gennaio, si è concesso ai reporter, ha risposto ad alcune domande e naturalmente più di una domanda verteva attorno a Gaza, la questione israelo-palestinese e agli atteggiamenti estremamente guardinghi che Barack Obama continua a mantenere sulla faccenda e Barack Obama non ha fatto altro che ribadire quello che ha già detto molte volte in questi giorni, ovvero che nonostante tutto è convinto, è certo del fatto che ci possa essere un solo presidente alla volta a parlare su quello che gli Stati Uniti d'America combinano sugli scenari internazionali e che non è certo possibile che un'autorità in un certo senso agisca in modo ombra rispetto a quella costituita e che quindi lui fino al 20 gennaio starà buono e zitto e il 20 gennaio stesso, come ha appena detto, cercherà di essere attivo nel modo più celere ed efficace possibile. Io vi ricordo che abbiamo due siti Facebook, uno si chiama Jefferson Ming Radio 24 ed è un po' la bacheca di discussione, uno si chiama Redazione Jefferson Ming che serve invece a contattare, a parlare con noi della redazione. Fra i tanti argomenti attivamente in discussione c'è anche naturalmente Gaza, quello che abbiamo intitolato Eyes on Gaza, no? Ci sono tanti vostri punti di vista di cui prendiamo nota. Fabio che dice questo tipo di guerra non si può vincere con schemi tradizionali, così saranno sempre i civili inermi di entrambe le parti a farne le spese. Oppure Giulio che dice ci sono due problemi, il conflitto israelo-palestinese e il conflitto, perché di questo si tratta, tra governo palestinese e Hamas. C'è Paride che scrive l'approccio militare militaresco che Israele ha nelle soluzioni dei problemi in Medio Oriente è assai discutibile. O Giuseppe che scrive nel combattere Hamas Israele compie gli stessi errori dello Stato italiano nel combattere la mafia. Poi c'è anche invece un bravo giornalista della Stampa, un inviato della Stampa che si chiama Mimmo Candido, che è un conoscitore dei teatri di guerra soprattutto in Asia e Medio Oriente, che oggi scrive un articolo intitolato "Ma le chiavi di Gaza sono in mano al faraone del Cairo", facendo naturalmente riferimento a Mubarak. Noi abbiamo chiamato Mimmo Candido, che in questo momento si trova negli Stati Uniti, proprio perché vogliamo rivolgergli un paio di domande così da un po' da insider su questi scenari e chiedergli una mano a capire qualcosa in più. Buon pomeriggio Mimmo. Buon pomeriggio anche a voi, certo, agli ascoltatori. Allora, la questione di fondo, io vorrei ricollegarla un po' a quanto detto poco fa su Barack Obama. Prima di tutto, tanto più dall'altra parte dell'oceano, quindi avendo una visione vicino ai fatti, è completamente condivisibile che in uno scenario di emergenza così gravoso, che porta giorno per giorno un numero di vittime a crescere in modo piuttosto impressionante, insomma, l'amministrazione che è pronta a agire nonostante tutto, a parere tuo, resti ferma per altre due settimane con quello che potrebbe comportare prima di dire veramente che cosa potrà fare e domanda a seguire. In realtà quella che per esempio sta forse mettendo delle pressioni su Mubarak è già la nuova amministrazione, secondo te quali sono questi scenari diplomatici che sicuramente sono necessari oltre che utili alla crisi in atto? Ma io anzitutto credo che sia molto giusto e molto soprattutto corretto dal punto di vista dell'equilibrio dei poteri di un paese che l'amministrazione entrante si tenga per ora da parte. Tutti sanno perfettamente quali sono le posizioni che ha espresso durante la campagna elettorale il nuovo presidente Obama, non ha nulla da aggiungere credo sotto questo punto di vista, lui non può intervenire in termini operativi, quindi è giusto che lasci lo spazio all'amministrazione in carica, perché come fa parte della tradizione politica americana il rispetto dei ruoli è fondamentale. i ruoli e le regole in una società democratica sono fondamentali. Da noi purtroppo non accade molto spesso questo, vi sono confusioni e commistioni e quindi i risultati poi sono di una incapacità di cogliere esattamente il senso del corso della politica. Certo. Quindi sotto questo punto di vista mi pare molto corretto e molto giusto, e anzi mi pare che sia molto interessante che voi lo mettiate in rilievo per i nostri ascoltatori, perché questo fa riflettere appunto su quello che una società democratica deve avere come esercizio del potere. Certo. Per quanto riguarda là poi sul concreto, l'idea che possa essere intervenuta in qualche misura l'amministrazione, diciamo, ombra, quanto per far riferimento certo. a dei percorsi che sono tipici della cultura europea, beh, io credo che su questo non vi siano stati fino a questo momento dei fatti concreti. Mi pare che il ruolo della signora Rice nei confronti di Bush è chiaramente ormai fuori gioco, su questo certo. non vi è dubbio. La signora Rice sta tentando, per quanto le è possibile, di ricucire ancora in qualche misura il proprio ruolo e quindi di facilitare un percorso di intendimento all'interno della crisi in atto. Quindi direi che vi è una maggior gestione da parte dell'amministrazione Bush. Ma quello che è più interessante, e qui il New York Times e il Washington Post entrambi lo mettono in rilievo, è che questo principio di vuoto, diciamo così, che si sta realizzando in quest'ultima fase della transizione fra due poteri, e noi sappiamo che in politica quando vi è un vuoto immediatamente qualcuno lo riempie sempre, certo. ecco, in questa impressione comunque di vuoto sia il New York Times sia il Washington Post si domandano se non vi sia uno spazio reale per l'Unione Europea, cioè tutti quanti riconoscono che quanto sta facendo Sarkozy a livello più o meno personale, comunque l'Unione Europea in generale, beh, dà un contributo autentico e dimostra quindi come quando vi sia un'iniziativa politica europea concreta, una capacità, una volontà, una dimostrazione di intervento diretto, beh, i risultati non mancano. Certo, in questo caso, come dicevo, si sfrutta una certa assenza americana, una certa assenza americana, però ecco, diciamo che questo sta sicuramente facilitando un intendimento che nella valutazione, leggevo stamani il New York Times, nella valutazione degli osservatori politici di qui, beh, appare meno lontana di quanto apparisse qualche giorno fa. Ecco, però Mimmo, per concludere il tuo intervento, fra le tante strade tutte piuttosto perigliose, insomma percorribili per cercare di migliorare la situazione, quella che passa attraverso la scrivania di Mubarak sembra in questo momento aver preso un certo credito. Sicuramente Mubarak è una personalità che tra i suoi interlocutori privilegiati, forse il cui interlocutore privilegiato è proprio l'America, gli Stati Uniti, la Casa Bianca. Sì, qui c'è in Medio Oriente, tutti coloro che viaggiano in Medio Oriente sanno perfettamente che laggiù c'è un detto molto preciso: non si può fare una guerra senza l'Egitto, non si può fare certo. una pace senza la Siria. Quindi vuol dire che l'Egitto ha un ruolo fondamentale e determinante per la sua storia e la tradizione, per il peso che esercita dal punto di vista demografico, dal punto di vista dell'estensione e della qualità della storia che esprime all'interno del mondo arabo. Però allo stesso tempo si è consapevoli che la Siria ha in mano una chiave di soluzione possibile, perché tutto è legato ormai alla restituzione delle alture del Golan. Quando è scoppiata questa crisi, non dimentichiamo che era in corso una trattativa fra Israele e la Siria, trattativa più o meno clandestina, più o meno riservata, ma di cui tutti avevano conoscenza. Beh, questo vuol dire quindi che gli attori che in questo momento sono in campo si stanno preparando, quelli quantomeno che sono in questo momento in una condizione di conflitto aperto, si stanno preparando a offrirsi alla nuova amministrazione americana, quindi alla gestione che l'amministrazione molto probabilmente farà, l'amministrazione Obama, si trovano ad offrirsi nella miglior condizione contrattuale possibile. Questo spiega in qualche misura l'accentuazione immediata della crisi e l'interruzione nello stesso tempo di quel dialogo semiclandestino che c'era fra la Siria e Israele. Però resta senza dubbio il ruolo fondamentale di Mubarak. Perché? Perché Mubarak è quello che guida in questo momento il fronte dei moderati ed è il più credibile all'interno delle società arabe. Non dimentichiamo che l'immagine che noi abbiamo del mondo arabo come di un mondo fondamentalista, bellicoso e così via, non corrisponde affatto alla realtà. Le società nazionali sono interessate allo sviluppo di ciascun paese e sono interessate ad un percorso di pace. È chiaro che le tensioni nazionalistiche o la solidarietà con i palestinesi ha un gioco. Ecco, Mubarak deve giostrare per questa necessità di un'uscita dell'Egitto dalla condizione di sviluppo ancora non realizzato e le pressioni che nascono dall'interno, dall'ala fondamentalista o comunque dal nazionalismo arabo in generale. Lui grazie. Ha la chiave di tutto questo. Grazie, grazie. Lui può risolverlo. Grazie, grazie delle tue considerazioni, delle tue indicazioni preziose, Mimmo Candido, inviato della Stampa, e i siti di discussione al riguardo sempre presenti sui nostri due siti attivi, Jefferson Ming Radio 24 e redazione Jefferson Ming. Continuate a dire la vostra. Beautiful time we had together. Now it's getting late and we must leave each other. My fellow Americans, I'm a PC. Why so official? Well, some people are giving up on Vista Mac because it doesn't work the way they want it to. I'm a PC, I'm a Mac. E è arrivata l'ora di parlarne e ora lo faremo immediatamente anche con l'aiuto di chi ne sa più di noi. Ma prima vi diciamo che tutte le telecamere delle televisioni All News americane sono puntate su un posto della Virginia che si chiama Fairfax, dove tra pochi minuti, 11 esattamente, Barack Obama salirà per pronunciare un discorso molto atteso, perché parlerà questa volta decisamente e chiaramente di soldi, di stimulus plan, di piano di stimolo per ridare vita e forza all'economia americana. E colgo l'occasione, anche in relazione a quanto detto prima, no, sulla giustezza di quanto abbiamo discusso poco fa con Mimmo Candido, sulla giustezza del fatto che Barack Obama non agisca fino al 20 gennaio, però mi arriva un sms, vi ricordo sono sempre in funzione, li leggiamo con attenzione, 349-238-6666, il messaggio di un ascoltatore che pone una domanda piuttosto intrigante. Ma scusate, scrive, quando si annunciano piani per l'economia da 300 miliardi, non vale la regola che c'è una sola amministrazione alla volta? E io direi touché. Anche se, come detto, lui sta mettendo le mani avanti. Ma noi invece adesso mettiamo le mani in pasta al grande frizzante disordine nel mondo dell'informatica, nell'informatica del mondo, perché a distanza di poche ore sono successi due eventi grossi. C'è stato Macworld con le presentazioni del mondo Apple e una grande assenza, naturalmente quella di Steve Jobs, e una certa delusione da parte degli addetti ai lavori. E poi ieri c'è stata la presentazione del sistema operativo Windows e anche qui una grande assenza, però, no? Quella di Bill Gates, che ormai fa il filantropo a tempo pieno. Quindi botta e risposta, I'm a PC, I'm a Mac, non finisce comunque la rivalità. Ci scrive tra l'altro un ascoltatore su Facebook, Gabriele, dice: è stato bello noioso il keynote, si sentiva la mancanza di Steve. Il momento più divertente è stato quando un gruppo di hacker ha preso il controllo di uno dei portali che in diretta pubblicava le notizie e si è messo a scrivere notizie false di ogni tipo. Poi dice che smanetta con iWork 09, che è molto meglio del precedente, non vede l'ora di utilizzare il nuovo iLife, e che secondo lui la vera novità è la batteria super lunga del MacBook Pro 17. Ma chiamiamo Bruno Ruffilli, giornalista della Stampa, che scrive di tecnologia e musica, nonché amico del nostro programma. Buon pomeriggio, Bruno. Buon pomeriggio a te Stefano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Senti un po', ma detto fra di noi, tutti un po' patiti, ma se alla fine la grande novità è una batteria, come dire, non è proprio da starci allegrissimi, no? Che no, dici? No, no, non c'è da stare allegri, ma in realtà secondo me la novità è un'altra, ed è quello su cui forse si sono soffermati un po' meno i blog e i giornali, perché era anche una di quelle più attese. Mm-hmm. E la novità è che iTunes, il negozio di musica della Apple, che ormai è il più grande negozio del mondo, vende finalmente canzoni senza nessun tipo di protezione, quindi compatibili con tutti i lettori MP3, anzi in realtà AC, perché hanno un formato particolare, ma comunque che la maggior parte dei lettori MP3 possono leggere, e quindi è la fine di un sistema chiuso per cui le canzoni di iTunes si potevano ascoltare solo su La domanda che già mi pongono in molti: ma sarà un provvedimento retroattivo o no? Cioè sblocca anche tutto quello che sta già nei nostri computer o no? Questo è ancora da capire. Che le prime cose, le prime voci che arrivano, dove sta succedendo gradualmente, perché come puoi immaginare, come gli ascoltatori immaginano, si tratta di 10 milioni di canzoni che devono essere ricodificate, certo, e rimesse online, certo, praticamente. Certo. In linea di massima funziona così, o almeno così è andata all'inizio con le canzoni della EMI, che per prima sono state liberate dai lucchetti digitali. Mm-hmm. Si pagava di più, si pagava un tot, mm-hmm, all'epoca erano 29 centesimi, per liberare la canzone dal lucchetto, diciamo così, averne una copia di qualità migliore perché registrata con un bitrate diverso, insomma comunque che si sente meglio, mettiamola così, e soprattutto masterizzabile un numero infinito di volte, copiabile tra tutti i computer, quindi non dovrebbe essere gratis. La notizia buona è che si può, la notizia brutta è che si paga. E che si paga, e che in un certo senso Apple attraverso iTunes ha un po' perso, no, quella, come dire, quella prevalenza sulla peraltro febbricitante industria discografica, che la costringeva a un prezzo fisso, anche se gli artisti erano star o quant'altro, più o meno. Insomma, prezzo fisso. Si è tornato a liberalizzare il mercato in un certo senso? Ma a liberalizzare relativamente, diciamo che Apple ha ceduto su un principio sul quale finora non aveva assolutamente dato spazio a trattative, cioè le canzoni hanno adesso tre fasce di prezzo, cioè 69 centesimi, 99 centesimi come è stato finora, ma anche 1,29 euro o 1,29 dollari nel caso dell'America. E questo è il prezzo più alto, naturalmente varrà per le canzoni più nuove, mentre il prezzo più basso sarà una specie di nice price per le canzoni più vecchie. Bruno, ho due domande, vediamo di riuscire a consumare nel poco tempo che ci resta. La prima è un tuo personale giudizio su McWord, e anche un tuo pensiero su questa questione così, poi, come dire, personalizzata, no? Legata alla presenza, assenza, alla figura di Jobs, sicuramente ben più di un capo, direi quasi un leader spirituale. Qui c'è da dire che l'assenza di Jobs, come appunto tu hai anticipato, era in realtà prevista. L'assenza di Jobs peraltro si iscrive in una strategia che è quella di Apple di abbandonare il Macworld, un appuntamento che per molti anni è stata la fiera più importante, il momento in cui Apple ha presentato tutto, i prodotti appunto che avrebbe lanciato nel corso dell'anno, e che però da adesso in poi, secondo Apple, non è più così fondamentale, perché Apple ha comunque una catena di negozi e una serie di punti vendita, per così dire, ma in realtà sono degli spazi anche grandi, anche attrezzati, in cui verosimilmente potrà presentare nuovi prodotti senza aspettare la scadenza fissa dell'inizio di gennaio, che è quella del Macworld. Quindi fa parte di una strategia. Peraltro lo stesso Schiller ha citato questa eventualità, dicendo che nei negozi della Apple in tutto il mondo vanno in una settimana 10 volte il numero di persone che c'era al Macworld. Certo. Quindi è una strategia. Detto questo, ancora l'assenza di Steve Jobs, come tu appunto rilevavi, è un'assenza importante, perché non c'era, non era neanche nel pubblico, non si è fatto vedere, non ha fatto commenti, niente, come se non esistesse. E questo fa parte di un'altra strategia, che è quella della transizione da una Apple tutta imperniata sulla figura di Steve Jobs a una Apple che ha una conduzione, diciamo così, di gruppo, in cui c'è un team di persone che prendono il posto di Steve Jobs. E si era visto già ad ottobre, in realtà, quando lo stesso Jobs si era fatto un po' da parte presentando gli ultimi MacBook Pro, e chiamando sul palco per esempio Jonathan Ive, che è il designer responsabile di tutti i prodotti Apple a partire dall'iMac della fine degli anni 90, e facendo intervenire anche appunto Schiller e anche altre persone che hanno ruoli diversi nel corpo d'Apple, proprio per presentare ai clienti e investitori una Apple collegiale, diciamo così. XXI secolo, certo. Sì. Senti, ultimissima cosa, è un caso che poche ore dopo, insomma, l'altra parte della barricata, Microsoft, esca fuori con un sistema operativo descritto come semplice, affidabile e veloce, ma queste sono parole che più volte abbiamo sentito dire, ma c'è una connessione, ci si infila in un vuoto, in un qualche vuoto di potere? No, non c'è nessun vuoto di potere, perché anche se Apple, come dire, non ne ha parlato al MacWorld, ha già in cantiere un nuovo sistema operativo che si chiamerà Snow Leopard, che uscirà tra qualche mese, è previsto entro la prima metà dell'anno, quindi uscirà comunque prima di Windows 7, per cui per Windows non ci sarà spazio in cui infilarsi, per così dire. D'altra parte, Wired scriveva qualche tempo fa che le varie versioni di Windows sono in realtà il complimento più sincero che la Microsoft abbia mai fatto alla Apple. Va bene, io ti ringrazio. Bruno Ruffini, tra l'altro vi ricordo, per chi vuole approfondire i punti di vista e le osservazioni di Bruno sul mondo dell'informatica, che ha un blog che è www.ruffilli.net. Ecco Vivian Su, ma un'ultima parola da Barack Obama dopo la botta, no, di Bill Richardson, che se n'è dovuto andare per pasticcetti poco chiari, ha fatto sapere di non aver ancora determinato il prossimo ministro del commercio, lo dice in una intervista alla CNBC, a chi gli chiedeva se potesse essere l'ex presidente amministratore delegato di Time Warner Richard Parson, Obama non ha risposto, ha commentato: è un bravo ragazzo, è un mio amico. Questo è di solito la strada con cui si diventa segretari, mi sembra, capite, nell'amministrazione Obama. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi, la mail Jefferson Ming è radio24.it, su Facebook andate a redazione Jefferson Ming, la bacheca, oppure a Jefferson Ming Radio 24 per parlare con noi, anche sul sito della radio attraverso la pagina Jefferson Ming c'è il collegamento a Facebook, andiamo in replica alle 21 stasera, domani in diretta attorno alle 4 come sempre qui su Radio 24. Bye-bye.